Nel 1917 a Milano, presso il Teatro alla Scala, e sotto il patrocinio della Croce Rossa Italiana, venne organizzata una mostra celebrativa dell'epopea garibaldina. Come racconta Piero Chiara, in quelle sue noterelle raccolte, credo uscite postume, raccolte nell'89 sotto il titolo di Sale Tabacchi, in quell'occasione, fra l'altro, vennero esposti in questa mostra lo stivale che Garibaldi calzava in Aspromonte allorché, come dice la canzone, fu ferito. Uno stivale con il foro di entrata della pallottola, la calza altrettanto bucata che stava sotto lo stivale medesimo e le bende che furono utilizzate per la fasciatura. Reperti contrassegnati dai numeri 310, 311 e 317, ottenuti per gentile concessione del Comune di Roma e del Marchese Luigi De Felice, legittimi proprietari di tali preziosità. Non so dove siano andati a finire, ma voglio pensare che un bene tanto cospicuo, un bene che qualcuno, mentre l'eroe dei due mondi imprecava, presumibilmente cercava conforti, ha pensato bene di sottrarre alla sorte del pattume per consegnarlo alla storia, voglio sperare che un bene tanto cospicuo non sia andato perduto e donori tuttora civiche raccolte, musei pubblici, nobiliari, ricettacoli privati. Pur ammettendo che il patrocinio della Croce Rossa insomma invogliasse alla nefandezza del reperto, il caso è pur tuttavia significativo. La storia la facciamo noi, consapevolmente o meno, ciò che teniamo o ciò che buttiamo è pur sempre l'esito dell'applicazione di valori validi nel momento in cui questa storia viene fatta. E oggi può farci comodo qualcosa che ieri avremmo ritenuto risibile, esecranda o trascurabile. Nei luoghi deputati, mostre, esposizioni, libri, enciclopedie, dunque può finirci di tutto. Le mutandine della duchessina de Frissac che io e Carlo abbiamo esposto nel cinquantenario della rivoluzione d'ottobre alla Casa della Cultura in Milano, o le mutande di Carlo Marx esposte mesi or sono a Treviri in concomitanza credo con la Sacra Sindone, piuttosto ci sarebbe da preoccuparsi del fatto che, mentre sulla falsità di questi ultimi reperti non sembra esserci ombra di dubbio, sulla calza bucata o sulle bende luride di Garibaldi c'è perfino il rischio di una loro autenticità, il che non deporrebbe a favore né del buon gusto né dell'ingegno umano. In una mattinata fiorentina della scorsa estate, allora non mi sono negato una visita al Museo di Storia della Scienza. Si è trattato di tempo speso bene. Il museo è ricco, ordinato con saggezza, bene illustrato da spiegazioni quasi sempre chiare ed esaurienti. Raramente l'oggetto è abbandonato a se stesso e non correlato all'ambiente storico in cui è scaturito. Ripercorrendo certe tappe della fisica, dell'astronomia, dell'ottica, della meteorologia e della medicina, ci si aggira fra sestanti astrolabi, telescopi, lenti e bilance, microscopi e termometri, temibili completi per l'apprendista chirurgo e strumenti di precisione originali che, per la loro evidente e abile artigianalità, rivelano fatiche e maestrie, rapporti fra le mani dell'uomo e le cose che oggi, quando la macchina ci sostituisce, non riusciamo neppure più a rappresentarci. Nella stanza dei mappamondi, a decifrare crittogrammi ed a commisurare l'osservazione con gli schemi ideologici che la rendevano tale, ci si potrebbe trascorrere un intero anno sabbatico. Buona parte di questa roba la si deve al denaro e alla curiosità del Granduca Leopoldo II, che, cultore di scienza e fiducioso nel progresso tecnologico, l'ha fatta arrivare un po' da tutta Europa e l'ha conservata per gli eletti che l'avrebbero seguito. È dunque con grande meraviglia che, fra tante cose ben scelte e ben messe, in una sorprendente campana di vetro sormontante un capitello in marmo, mi sono trovato di fronte ad un dito di Galileo Galilei. Un dito che, in quanto a strumento scientifico, concettualmente, è il caso di dire che fosse proprio ridotto all'osso. Questo dito ha una storia, eh? Allora, Galileo è morto ad Arcetri l'8 gennaio del 1642, quando le sue fortune presso i potenti erano ancora piuttosto scarse. Nel 1728, un bel po' di anni dopo tuttavia, un inglese, l'astronomo di corte James Bradley, scoprendo il fenomeno dell'aberrazione della luce, confermò che era la Terra a girare intorno al Sole e non viceversa. Ciò fece sì che la corta Chiesa cattolica decidesse di togliere dai libri all'indice il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo e che, pochi anni dopo, qualcuno proponesse di conferire più degna sepoltura a ciò che ne era rimasto del Galilei, trasferendolo in quella chiesa di Santa Croce dove attende tuttora nuove rivoluzioni scientifiche e relativi nuovi potenti che possano guadagnarci qualcosa da un ulteriore trasloco. Il 12 marzo del 1737, così, la salma venne dunque traslata, ma approfittando di qualche disattenzione sembra che il preposto all'inumazione, tal Antonio Francesco Gori, riuscì a sottrarne un dito, che poi di eredità in eredità si trasmise a tutti i suoi discendenti, fino a qualcuno che, presumibilmente più schifato degli altri, lo regalò per l'appunto al museo. Sulle ragioni del becchino amputatorio regna più o meno l'oscurità. Qualche anima pia, a cui piace leggere la storia in termini di intelligenza e buoni sentimenti, sostiene la tesi che il dito fu scelto dal Gori al nobile scopo di preservare quel segmento di umanità che per primo osò indicare i pianeti. Io ignoro i turpi motivi che possono aver indotto a questa iniziativa e depreco anche, assecondando processi di valorizzazione in auge in società opulente e conculcate, che questo dito sia stato conservato ed esposto. Il collezionismo è una forma di patologia sociale pericoloso quanto gli apparati mitologici di cui il potere si serve per continuare a potere. Della tesi relativa al fatto che quel dito per primo indicasse i pianeti, poi mi permetto di dubitare. Innanzitutto mi lascia sempre sgomento sentire qualcuno affermare che il tale per primo ha fatto questo e quest'altro. Figurarsi l'indicare i pianeti col naso all'aria, prima o poi ci sta chiunque, e non solo gli umani. E secondariamente faccio notare che il dito in questione non è l'indice, bensì il medio della mano destra. Ragion per cui in quella campana di vetro, rivolto verso l'alto, preferisco pensarlo come un segno di ciò che alle sofferenze e dalla morte del povero Galileo è seguito. Leggermente scurrile, forse, ma un soddisfacente segno di rivincita.